America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti alla America 24 da New York. Mario Platero, ultimo giorno di campagna elettorale in Florida, domani le elezioni, una battaglia durissima, tesissima. Mitt Romney è riuscito a recuperare, non abbiamo naturalmente risultati, Gingrich annaspa un po', l'altro giorno non l'ho visto in forma nel dibattito. Dunque abbiamo già parlato parecchio di queste elezioni americane, aspettiamo il risultato. Intanto oggi vorrei parlarvi di un'altra storia. La mia famiglia sono da quattro generazioni di argentieri a Roma. Creo e spero di creare nel futuro oggetti d'arte fatti in argento, la maggior parte, a volte con altri metalli, con vetro, con legno, oggetti diciamo contemporanei. Ho avuto anche una mostra allo Smithsonian quest'anno. Nello stesso tempo, oltre a creare oggetti contemporanei, faccio restauri di oggetti d'arte per musei in tutto il mondo di alto livello. Ricorderete, qualche tempo fa abbiamo fatto una trasmissione sul premio della MacArthur Foundation, un premio che andò a Baldo Vitali, e il premio che in America ha un nickname, ha un soprannome, è chiamato il premio per i geni. Ci siamo occupati di questo premio, sicuramente molto interessante, abbiamo avuto una lunga chiacchierata con Baldo Vitali e ci siamo accorti però che dopo che l'abbiamo scoperto noi l'ho anche scoperto la CNN, la quale ha dedicato addirittura una puntata intera alla storia, alla di questo italiano che è qui in America da oltre 40 anni e che è un argentiere, è un artista, è un uomo di cultura. L'ho di nuovo con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Baldo. Buongiorno Mario. Devo dire, la conversazione di qualche tempo fa è stata affascinante, ma adesso CNN addirittura fa un documentario su quella che è stata la tua opera. Come nasce questa cosa? Nasce con un'altra telefonata, come ti ricorderai, fu con una telefonata che venni a conoscenza del premio. Questa è stata un'altra telefonata, questa volta da CNN, e dopo una lunga conversazione mi hanno domandato se mi interesserebbe essere protagonista di una mezz'ora in un programma nuovo che loro hanno, sia sul mio lavoro, sui miei interessi, sulla mia vita. Ecco, e questo per cosa? Per dare un po' un esempio di qualcuno che può cambiare qualche cosa. E questo è il senso del programma? Penso che questo sia il senso del programma. Una delle cose che mi ha meravigliato è, logicamente, io sono semplicemente un argentiere, mi interesso di altre cose, ma sono praticamente un argentiere storico dell'arte. Non è che abbia cambiato cose come può essere un dottore che scopre la cura per il cancro o uno scienziato. Beh, però forse hai cambiato qualche cosa nel modo di essere di alcune persone. Hai fatto dei restauri, per esempio, di oggetti straordinari. Qual è l'oggetto più antico che hai restaurato? L'oggetto più antico è una statuetta di Hermes che risale al 4 secolo prima di Cristo. I restauri vanno da quel periodo fino al moderno, diciamo. I'm Ubaldo Vitali and I am an alchemist. I believe in alchemy not because I want to make gold. I believe in theoretical alchemy. It is the power of studying nature to the finest, most minute essence and be able to reorganize it, recombine it, transform it. Ubaldo Vitali è argentiere, come dicevo, grande artista, ma non soltanto, è appassionato di altre cose. Appassionato, intanto, un grande storico dell'arte, ma è appassionato di simbologia, è appassionato di aspetti esoterici. E appassionato di alchimia. Sono tre cose che vanno insieme? Penso che tutto vada insieme. La cosa più importante per l'alchimista è trovare i segreti della natura e combinarli, metterli in ordine, riordinarli. La manipolazione degli elementi non è soltanto a livello di elementi come metalli, ma è anche praticamente maneggiare e ordinare cose universali, il che significa anche riordinare eventi storici che ci riappaiono come nuovi. E questa è una cosa che a volte con gli oggetti, perché un oggetto contiene tutta la genealogia della sua creazione, quindi nello studio di questa creazione noi siamo a volte capaci di ricapire la storia. In che senso la genealogia della sua creazione in un oggetto? Quando uno comincia un restauro di qualsiasi oggetto, diciamo un oggetto del 600, del 700, per esempio nel mio caso, io cerco di studiarlo per mesi, sapere esattamente chi l'ha fatto, da dove viene, la parte storica, a chi apparteneva, tutte queste cose. E generalmente l'oggetto si rivela, perlomeno io credo che si riveli in molte molte maniere. A volte sono riuscito, studiando oggetti, diciamo, del più famoso argentiere francese Thomas Germain. Prima di cominciarlo sono andato ad un archivio a Roma a vedere quando da giovane si era trasferito a Roma, e ho trovato fonti di archivio completamente sconosciute da un punto di vista. Ho trovato firme dei due fratelli che lavoravano con lui nella chiesa del Gesù e così via. E l'alchimia? L'alchimia è la base di tutte quante le cose, perché tutto è collegato, e per l'alchimista ci sono molte fasi in cui uno deve attraversare, quello può applicare a qualsiasi forma d'arte. La prima fase è di distillazione, la seconda fase è di devi perire, devi morire, no? Per essere ricreato. E queste sono cose che tu puoi applicare ogni giorno nella vita e puoi applicare nel tuo lavoro. Ecco, di queste cose ne hai parlato con CNN, avete affrontato anche queste tematiche durante alcune, la vostra chiacchierata? Alcune, soltanto alcune, perché c'è sempre il pericolo che ti prendano per un matto, no? Uh-huh. Sì, alcune cose sì. Ho parlato per esempio del calendario magico. Il calendario magico è un calendario che fu fatto a Francoforte nel 1620 e include tutta la conoscenza del principio del 600, la conoscenza degli elementi, degli astri, la conoscenza degli spiriti, sia benevoli che malefici. Quindi è una specie di enciclopedia di simboli che ci fa capire esattamente il livello di conoscenza al principio del 600. È veramente formidabile. Ci sono ancora oggi persone che, a parte te, che segui queste cose, ma c'è la cultura della simbologia, dell'esoterismo, dell'alchimia? Sì, c'è, ma è molto limitata. Logicamente c'è sempre il pericolo che questi campi attraggano delle persone che sono un po' ai limiti della ragione. Sì. Non so, io conosco un alchimista che vive con la moglie su un albero, quindi non credo che sia un esempio da portare. Ecco, che tipo di production ha fatto CNN? Sono venuti in forza, diciamo, c'erano due cameraman con sei camere, non so esattamente come sarà, ma la volontà c'era, erano persone molto molto brave, molto profonde nel senso di quello che chiedevano. Siamo nei primissimi mesi, siamo ancora a gennaio del 2012, vorrei che tu potessi dare ai nostri ascoltatori un messaggio su questo 2012, un messaggio che raccolga, se vuoi, alcuni aspetti simbolici, altri esoterici. Ti viene in mente un messaggio che possiamo dare alle persone che stanno affrontando il nuovo anno? Non lo so se posso dar consigli a nessuno. La cosa più importante comunque è non arrendersi mai a degli ostacoli, domandarsi sempre il perché di tutto. Un esempio classico, io ho quattro nipotini e tutti quanti continuamente mi dicono ma perché nonno, ma perché nonno, e qualsiasi risposta gli do mi dicono sempre sì nonno, ma perché. E questa penso che sia il segreto che noi adulti ci siamo scordati. Noi diciamo sì, ma non diciamo sì, ma perché. E questo è quello che vorrei ricordare a tutti noi. Sì, ma perché? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sabato scorso i Police hanno fatto il tutto esaurito a Minneapolis, prima tappa di un tour che si chiuderà a New York alla fine di marzo. La band promuove l'uscita del secondo album Give You The Ghost, che uscirà il 14 febbraio. Dei Police, The Maker. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.